Bella che c'è, dice qualcosa di ciò che c'è in me. In ogni parte della mia esistenza trovano asilo realtà ed apparenza. Ho voltato le spalle a me stesso, restando immobile come un cipresso. Volevo salvare questa mia vita, pensando che vince chi non l'ha scalfita. Sempre ciò che mi va non è la risposta a ciò che non va. Se voglio amare nel mio quotidiano è ora di alzarsi da quel divano. Dio non mi lascia vagare in vano, ma in ogni momento mi tende la mano. Nel cuore mi chiama al cambiamento, son pronto alla scelta e questo è il momento. È giunto il tempo di stare a tempo con il sogno che vi ha per te. Punta lo sguardo in alto, lui vede più lontano. È giunto il tempo di stare a tempo con il sogno che vi ha per te. Guardo in alto, lui vede più lontano di te. Ora apriamo il cuore all'amore, insieme cantiamo al Signore, nel suo cuore impresso il tuo nome. Lui vede.